Benvenuti in questo nuovo mondo fatato. Fatato. Fatato. Una nuova favola. Sta per cominciare. E adesso le domande stanno spiccando il volo. E adesso le domande stanno spiccando il volo. E adesso le domande stanno spiccando il volo. Sto bene, tiro avanti.